I'll find the love for me. Darling, just time light in and follow my lead. I'll find the girl, beautiful and sweet. I never knew were the someone waiting for me. We were just kissed when we fell in love, not knowing what it was. I will not keep you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're in my arms, back on the grass, listening to our favorite song. When you say a little too much, I whisper underneath my breath, but you hold it, darling, you. Donna, la forza delle onde del mare, con i miei sogni, i miei segreti, molto di più. Spero che un giorno l'amore che ci ha accompagnato diventi casa, la mia famiglia diventi noi. E siamo sempre bambini, ma nulla è impossibile, e nel tuo sguardo crescerò. Mi baci piano ed io torno ed esiste, e nel tuo sguardo sussurrando ho detto, tu stasera vedi sei perfetta per me. Ballo con te. Ho creduto sempre in noi, perché se un angelo io ti ho aspettato, quanto ti ho aspettato, perché tu stasera sei perfetta per me. I'll find the love for me. Darling, just time light in and follow my lead. I'll find the girl, beautiful and sweet. I never knew were the someone waiting for me. We were just kissed when we fell in love, not knowing what.